Letture di Radio 24. Se esistono tour artistici o storici, perché non possono esistere anche tour politici? Se lo domanda Nicholas Wood, giornalista del New York Times, spiegando le ragioni che lo hanno spinto a organizzare visite guidate alla City londinese, vista alla luce delle speculazioni finanziarie e del degrado morale della finanza anglosassone. Ladies and gentlemen, ci troviamo nel cuore della City di Londra. Alle vostre spalle la Banca d'Inghilterra, The Old Lady. Un poco più avanti potete vedere doppio petto di lino blu, camicia a righe ampie, cravatta sorprendentemente vezzosa. David Buick è l'affabulatore di una narrazione che caracolla fra il ricordo storico, la memoria personale, l'ultimo pettegolezzo. Di si dice è piena la City. I rumors, talvolta in odore di insider trading, attraversano da secoli un miglio quadrato. È l'estensione geografica del distretto finanziario britannico che aspira a spiegarsi. Vuol dar notizia di se stessa, della propria esistenza oltre la crisi, rivolgendosi a una ristretta platea di curiosi pronti a pagare 400 sterline per un giorno e mezzo di camminata fra le macerie morali ed economiche della finanza anglosassone nel quinto anno dell'era credit crunch. David Buick, stockbroker di professione, è la guida occasionale di un tour, Il debito e la City, che comincia con una parola divenuta involontario lessico familiare, la bolla, non quella di sapone, ma della speculazione. Ecco, proprio la Banca d'Inghilterra fu colpita dalla South Sea Bubble, insostenibile dinamica finanziaria, che resta la madre di tutte le bolle successive. Un evento che cambiò nel 1695 il destino della Bank of England, coniando un sostantivo e tracciando un destino che si legge così: è accaduto e continuerà ad accadere. La cupidigia umana. David Buick la misura su se stesso. Se a 68 anni sono ancora al lavoro, lo si deve proprio all'avidità di tanti anni fa. In Leadenhall Street, la storia personale di un broker a caccia di un facile guadagno e quella di un palazzo dall'incerto destino si incontrano. Il Cheese Grater, ovvero il grattacielo progettato da Richard Rogers che svetta dinanzi all'edificio dei Lloyds di Londra, rimase fermo per mesi a causa della crisi del 2008, senza più un padre e una madre in grado di garantirgli un destino economico sufficiente a far ripartire i lavori. Gli operai sono tornati sulle impalcature e da lì guardano il palazzo che ospita il più grande mercato delle assicurazioni del mondo, dove si consumò un altro atto di umana ubris. Era il 1989 e sui Lloyds precipitò la crisi dell'amianto. Migliaia di persone fallirono. Case e risparmi di una vita furono portati via. Accadde in una certa misura anche a me. Anche per questo continuo a lavorare. Ma è stato giusto così. Erano margini enormi. E nell'ubriachezza generata dall'odore del profitto, molto poco del rischio sull'amianto fu riassicurato. Il conto finale fu enorme, anche se misurato con le tasche capienti dei singoli investitori. Erano gli anni del boom innescato da Margaret Thatcher. Il Big Bang finanziario s'accompagnò all'abbattimento dell'imposizione fiscale e all'occhieggiare del capital gain, balzello a lungo sconosciuto. L'opulenza londinese, molti la fanno risalire a quella bizzarra prolungata dimenticanza. Più di un terzo degli investitori in borsa erano privati 30 anni fa. Oggi, al London Stock Exchange, non più di 1 su 10 è singolo risparmiatore. E questo significa che la ricchezza delle famiglie, quella nata da denaro esentasse, sbocciava dalla speculazione finanziaria che è storia antica, come abbiamo visto, assai più delle consunte insegne del Jamaica Coffee House, che nel 1652 divenne storico punto di incontro di buyers and sellers. Allora come ora? Lo dicono i numeri, il 17% dell'economia britannica è nei servizi finanziari. La finanza pesa, ma non tanto. Nicholas Wood sa di esagerare e presto si corregge. Non vuole dare sostanza al sospetto che fortissimamente nega, ovvero di voler promuovere la City dando così un contributo alla riabilitazione di ammaccati banker. È lui, ex giornalista del New York Times, l'ideatore di Political Tours, bizzarra idea che aspira ad applicare criteri da inchiesta giornalistica a visite di approfondimento nel cuore dei fatti. Il concetto è semplice, va precisando a chi lo sollecita. Se esistono tour artistici o storici, perché non devono esisterne di analoghi sui temi della politica? poche migliaia di dollari ed è servizio completo per un bagno di realpolitik. Passeggiare portati per mano fra le piaghe della City è di straordinaria attualità per quella voglia di perdono che sale in superficie fra le chiacchiere con dealers all'apparente ricerca di umana comprensione. Non c'è nulla di buono o di cattivo che non sia reso tale dal pensiero. Chris Derbyshire, ex uomo dei derivati Goldman Sachs, s'appella ad Amleto per ragionare su quanto sia opinabile la fama. Non lo era, lascia intendere, quel primo contratto future che un contadino della Mesopotamia firmò 7 secoli prima di Cristo per proteggere il proprio raccolto. Molto meno primitivo è l'abbrivio successivo, quello dei giorni nostri, quando la cultura dei prodotti derivati è esplosa accoppiandosi con il godimento dell'azzardo. È accaduto qui, in queste strade, lucide d'ottone, molto più che in quelle di Wall Street. È qui che l'acrobatico edificio finanziario ha incontrato la britannica passione, viscerale, per il rischio, dove la finanza si è fatta pura scommessa. Lei dice che siamo solo bookmakers? È così, per tutti. Angus Campbell replica senza ipocrisia alla più ovvia obiezione, lui che maneggia il cosiddetto financial spread betting, strumento non troppo diverso dal far volare una moneta in attesa di una testa o di una croce. È vietato negli Stati Uniti, ma minaccia di contaminare i mercati finanziari inglesi, innalzando il rischio. È tanto apprezzato dagli investitori perché non c'è tassa sul guadagno. Perché, mi domanda? Semplice, replica Angus. In Inghilterra non ci sono imposte sulle scommesse. Credevamo di essere nella City e abbiamo la bizzarra sensazione di muoverci nel privé di un casinò. Ma forse, come dice Angus, lo stupore va messo via perché le similitudini sono evidenti. Troppe, se è vero quanto racconta Bill Hubbard a conclusione di questa corsa a pennellate molto naive, su e giù la superficie di un quadrato che sembra molto più di un miglio, capace come è stato di allargarsi oltre i confini naturali. Ha molti ex nel suo curriculum, di maturo dealer, banker, columnist, Mr. Hubbard. Si avvicina con l'accento arrotato del sud degli Stati Uniti e sussurra: mai vista una situazione come quella degli ultimi anni. I mercati sono fuori controllo. E se invece per qualcuno battono la fiacca, è motivo in più per inventarsi un buon business, passeggiando a pagamento fra i resti del boom. E questo era un articolo di Leonardo Maisano, corrispondente da Londra del Sole 24 Ore, pubblicato sul settimanale Domenica, allegato al numero odierno del quotidiano. Oltre ad esportare merce di ogni genere, da un po' di tempo la Cina esporta anche studenti. Più che una fuga di cervelli, un espediente per evitare il difficilissimo esame di maturità. Sempre più adolescenti fuggono dalla Cina per studiare all'estero, come gli 88 adolescenti con passaporto di Pechino stipati nelle aule di una vecchia scuola alla periferia di Detroit, trasformati in dormitorio. Iscritti al college della città americana, probabilmente per non tornare nella madrepatria per lungo tempo. Scappano prima di arrivare all'università, ancora teenager, soprattutto negli Stati Uniti, per aggirare, leggi evitare, l'esame di maturità in Cina, o Gaokao, un test che spesso diventa un massacro. Quantomeno una selezione crudele, da molti considerata tutt'altro che uguale per tutti. Gli studenti di Shanghai hanno quasi il 300% di possibilità in più dei colleghi delle province interne di entrare nelle migliori università del Dragone, a cominciare dalla prestigiosa Università Fudan. Ma se le statistiche ufficiali non mentono, non sempre dicono tutto. Perché se le semplici cifre raccontano che si è passati da 10 milioni e mezzo di maturandi del 2008 ai 9,15 milioni di quest'anno, non spiegano che sono sempre di meno i cinesi a credere che ne valga davvero la pena. La Cina popolare è, a oggi, il paese che esporta il numero più alto di studenti, 340.000 nel 2011, con una crescita del 20% all'anno negli ultimi anni. In particolare, il numero degli adolescenti che volano via cresce anche del 30%, con l'imprevedibile approvazione degli apprensivi genitori di figli unici. E non sono solo i figli della nomenclatura e dei milionari. Il 75% degli studenti espatriati appartiene all'alta borghesia delle città, famiglie con reddito superiore ai 36.000 euro l'anno. E i genitori? Li seguono. In Australia, i cinesi della madrepatria sono ora primi nella classifica degli immigrati, dopo aver superato anche i britannici. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Edoardo Vigna, La fuga degli adolescenti, dal Magazine 7 del 19 ottobre.